verso il voto. La data del voto, ma anche la vicenda Alitalia in primo piano nella giornata di campagna elettorale, una giornata che dopo annunci e smentite è stata caratterizzata dalla decisione del segretario della DC Giuseppe Pizza di non chiedere il rinvio delle elezioni dopo il ricorso alla giustizia amministrativa che ha riammesso la sua formazione alla competizione elettorale. Sono convinto che si voterà il 13 e 14 aprile, ha detto Pizza, precisando però che il suo partito non rinuncerà al proprio simbolo, lo scudo crociato, sulla scheda elettorale. Sentiamo Pizza nell'intervista di Anna Miglioratti. In qualche modo rinunceremo perché mi rendo conto che ci sono anche dei vincoli costituzionali sulla data ultima dello svolgimento del voto. Sbaglia il mio amico Romano Prodi quando dice che l'Italia farebbe una cattiva figura all'estero con il rinvio del voto, perché la cattiva figura si fa quando i più elementari diritti di democrazia costituzionalmente garantiti vengono calpestati. Comunque sicuramente non saremo noi a creare questi problemi al paese. Dalla Sardegna, dove ha fatto tappa il suo tour elettorale, Walter Veltroni ha intanto invitato il governo a riprendere l'iniziativa sul caso Alitalia per rilanciare la trattativa con Air France. Sollecito che in queste ore il governo assuma una capacità di regia per evitare la precipitazione verso il commissariamento, che potrebbe significare per molti lavoratori di Alitalia e dell'indotto la perdita del posto di lavoro. Le interferenze della politica sul caso Alitalia sono state micidiali, ha aggiunto il leader del Partito Democratico, che è anche tornato a criticare gli annunci di Berlusconi. È stato detto che c'era una cordata, poi che questa cordata era pronta, poi non si è materializzata. Poi si è detto che di questa cordata avrebbero fatto parte i propri congiunti. Poi si è detto che invece i giornalisti avevano capito male. Commentando il caso Alitalia è tornato invece a fare appello agli imprenditori italiani Silvio Berlusconi, che è intervenuto anche sulla decisione della DC di Pizza. Sentiamo il servizio di Vincenzo Miglietta. La conferma che si voterà il 13 e 14 aprile rasserena gli animi del Popolo della Libertà. Berlusconi aveva parlato di dramma per il paese, fini di una vera e propria follia. L'incontro con Pizza a Palazzo Grazioli invece cancella ogni spettro di possibile rinvio, la soddisfazione del cavaliere. Francamente non ne dubitavo, perché ci mancherebbe altro che apparissimo anche sul panorama internazionale come un paese costretto a rimandare le elezioni. Berlusconi pensa al possibile ritorno a Palazzo Chigi e fa capire: sono pronto a governare, ma la situazione del paese è difficile. L'ex premier lancia ancora una volta l'appello al voto utile: ci potrebbe essere il rischio, spiega, che chi vince, e io sono sicuro che vinceremo, non possa disporre di una maggioranza vasta al Senato. Un attacco poi al governo del centrosinistra. Da un lato 5 anni per costruire, dall'altro 5 minuti per distruggere. E questo è qualche cosa che credo faccia la differenza. Aboliremo la tassa di successione, conferma Berlusconi, libererò la Campania dai rifiuti, e da Bassolino aggiunge che con la Iervolino e Prodi ha fatto soltanto danni. Il capitolo all'Italia, poi il cavaliere, si appella all'orgoglio degli imprenditori italiani. Io ho rivolto un appello all'orgoglio dei miei colleghi imprenditori, perché poi non è che uno debba partecipare con milioni e milioni, basta mettere una fiche se uno ha l'orgoglio che il nostro paese debba continuare ad avere una compagnia di bandiera. Air France commenta Fini: ha trattato da una posizione di forza, il governo si è mostrato latitante, esulta la Lega per il passo indietro di Air France, così Maroni a viva voce a Radio 24. Salvaguardiamo Malpensa, salvando in qualche modo, come sarà possibile, all'Italia. C'è un'altra cordata, benissimo, qualunque sia, sarà certamente meglio di Air France. Sul caso all'Italia interviene anche Pier Ferdinando Casini, che definisce la vicenda una polpetta avvelenata per il prossimo governo. Il candidato premier dell'Unione di Centro critica in particolare il comportamento dei sindacati. Su Alitalia è il momento dell'autocritica. Io vorrei che in questo paese una volta tanto facesse un'autocritica anche il sindacato, perché con le resistenze corporative non si può pensare di risanare l'Alitalia. E credo che il sindacato abbia grande responsabilità in questa vicenda, per i comportamenti passati e forse anche presenti. Difende invece i rappresentanti dei lavoratori e punta il dito verso Air France, il leader della sinistra arcobaleno Fausto Bertinotti. Io non capisco come si possa pensare che la colpa sia dei sindacati e non di Air France, che fa una trattativa sostanzialmente senza capacità di relazione e di rapporto. Bisogna ritornare a considerare A. che abbiamo bisogno di una compagnia di bandiera, B. che la questione dell'occupazione non è un peso ma è una risorsa. Con lo stop alle trattative su Alitalia è accaduto ciò che Berlusconi voleva, Air France non c'è più, afferma infine il leader dei socialisti Enrico Boselli. Adesso è accaduto quello che voleva Berlusconi e io mi auguro che adesso entri in campo la cordata di imprenditori italiani, glielo dico senza polemica. È tutto per questa pagina sulla campagna elettorale, un saluto da Andrea Viali.